24 mattino. Eccoci, 8:18 minuti, ben ritrovati. Parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Buongiorno, ti preannuncio già che mi devi alzare le cuffie perché le cuffie. Ecco, c'è sempre questa cosa, dice il livello è buono e poi appena parlano gli altri. Ma questo è Carmelo che alzami tutto, il livello perché che mi boicotta la trasmissione, lo so. No, perché dobbiamo spiegare agli ascoltatori che io ho il controllo e il potere sui livelli delle come cuffie. Come nella navicella spaziale Houston, abbiamo esatto, un problema, noi non ce l'abbiamo. Il livello delle fortuna. Cuffie è buono? A posto, partiamo. Perfetto. Ha interessato moltissimo a tutti gli ascoltatori questo livello delle cuffie. Deborah, oggi parliamo, come detto, di farmacie, sì. Un luogo che purtroppo insomma frequentiamo spesso, e dei servizi sempre maggiori che si possono. Sì, però avere. Potrebbero arrivare delle novità che consentirebbero alle farmacie di implementare i servizi che già erogano, e allora tra poco potrebbe essere possibile prendere un appuntamento per una visita specialistica direttamente in farmacia, ma non solo. Basta anche con le code interminabili per pagare il ticket o per ritirare gli esiti di un esame. Si potrà fare tutto direttamente nella farmacia sotto casa, non nell'immediato, probabilmente tra qualche mese. Allora non è esattamente una rivoluzione, perché in realtà in molte città italiane tutto questo già accade, in molte regioni tutto questo già accade, ma in realtà adesso potrebbe accadere su tutto il territorio nazionale. Buongiorno a Marcello Tarabusi, dottore commercialista specializzato in assistenza alle farmacie e alle strutture sanitarie. È un esperto del Sole 24 Ore, benvenuto a Soldi e Dintorni. Grazie, buongiorno a lei, dottoressa, e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo a che fare praticamente con un disegno di legge che è stato approvato in maggio e che ha introdotto la riforma del processo civile, ma ha anche delegato il governo a razionalizzare, incrementare e possibilmente migliorare i servizi offerti dalle farmacie italiane. Mi spiega intanto cosa c'entra la riforma del processo civile con il miglioramento dei servizi nelle farmacie? Direi nulla, nel senso che questo provvedimento in realtà è un provvedimento di quelli che, a cui il legislatore ci è abituato, in cui partendo su un tema e su un argomento in realtà poi se ne inseriscono durante il dibattito parlamentare tutta una serie. In particolare questo articolo, l'articolo 11, deriva da un articolo che riguardava la disciplina dei comuni di minori dimensioni, poi nel frattempo si è parlato di farmacie rurali e poi è diventato un decreto, una delega sui servizi in farmacia. Era così, insomma, solo una curiosità per capire la ratio di tutto questo. Allora, dopo lo scontrino parlante che certifica se abbiamo diritto o no ad uno sconto fiscale legato all'acquisto di determinati farmaci, adesso aumenteranno i compiti attribuiti alle farmacie, tutto però nell'ottica di migliorare il rapporto fra cittadino e servizio sanitario. Allora, che cosa dovrebbe succedere entro qualche mese, Tarabusi? Allora, diciamo questo, la delega al governo è per dettare una disciplina uniforme di questi servizi che si rifanno al modello cosiddetto della farmacia dei servizi, che è un modello di cui si parla ormai da 15 anni. In realtà non si tratta tanto di una novità sotto il profilo del tipo di servizi erogati, che così a titolo per ricordarlo si tratta di assistenza domiciliare integrata, cioè l'assistenza a chi non può recarsi dalle strutture sanitarie, l'educazione sanitaria della popolazione, lo screening e la prevenzione di patologie ad alto impatto sociale e appunto le prenotazioni CUP e il ritiro del referto in farmacia. Quindi servizi che in molte regioni già le farmacie erogano. Quello che il governo dovrebbe fare è appunto dettare una disciplina uniforme, anche perché su molti di questi servizi non c'è un quadro giuridico definito, per cui si vengono erogati oggi sulla base di accordi regionali e con una difformità da regione a regione. Infatti, ancora per in questi esempio, giorni a molte regioni stanno trattando con le farmacie sulla materia di questi servizi, e quindi il governo dovrebbe razionalizzare la disciplina e cercare di mettere tutte le farmacie in condizioni di erogare questi servizi. So che c'è una regione particolarmente virtuosa dal punto di vista della prestazione e dell'erogazione di questi servizi, che è l'Emilia Romagna, la sua, dottor Tarabusi, ma anche a Milano le visite specialistiche si possono prenotare in farmacia già da qualche tempo, la regione Marche sta concludendo un protocollo proprio in questi giorni, quindi in realtà il meccanismo è già partito. Diciamo che assolutamente sì, il modello è quello del cosiddetto one stop shop della salute, cioè la farmacia dovrebbe essere il punto, il presidio sanitario di prima istanza per i bisogni del cittadino, perché è un punto che è quello che ha la maggiore accessibilità sul territorio, la maggiore diffusione capillare, quindi l'idea è quella di sfruttare per dei servizi che sono la nuova frontiera. Ieri il farmaco era la frontiera della sanità, oggi sono i servizi al cittadino la frontiera della sanità, sfruttare questa rete che è da un lato capillare e dall'altro in molte parti d'Italia, auspicabilmente in tutte, dotate anche di infrastrutture informatiche che consentono appunto la realizzazione di tutti questi servizi e l'integrazione in prospettiva con l'informatica del settore pubblico, che ha fatto anch'esso grandi passi da gigante. La delega che è stata assegnata al governo ha una durata di 3 mesi e una volta che si è concluso questo periodo di tempo, secondo lei a questo punto che cosa succederà? Tutte le farmacie dovranno essere capaci di erogare queste prestazioni o comunque saranno individuate, non so, le più grandi, quelle che hanno già determinate caratteristiche dimensionali ed organizzative? Lei che prospettiva vede da questo punto di vista? Diciamo che nella delega non c'è un criterio direttivo in questo senso, però è nell'essenza stessa del modello di farmacia italiana che tutte le farmacie debbano essere messe in condizione di fare questi servizi, perché chiaramente la rete ha un significato di altissima valenza, riconosciuta anche in sede comunitaria dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, proprio per la sua capillarità. Ed è questa la scommessa che deve fare, a mio avviso, ma non solo mio, il governo, quello di mettere tutte le farmacie in condizione di fare questi servizi. E qui mi permetto due spunti. Uno, il fatto che all'interno della delega c'è la revisione dei sussidi alle farmacie rurali, che sono le farmacie che hanno sedi disagiate con pochi abitanti o con difficili situazioni di accesso. Ecco, forse quei risparmi potrebbero essere investiti per consentire, diciamo, i risparmi sulle farmacie a cui verrà tolto il sussidio potrebbero essere consentiti per mettere quelli in reale disagio in condizione di fare questi servizi con sussidi ad hoc. Dall'altro punto di vista, ricordo che in un disegno di legge giacente in Parlamento a firma Tomassini Gasparri c'è un modello di calcolo dei risparmi di spesa del servizio sanitario. Qui si parla di remunerazione dei servizi attraverso i risparmi di spesa del servizio sanitario e l'idea che appunto dovrebbe essere perseguita è quella di considerare tutte le spese, anche quelle collegate e anche gli oneri a carico del cittadino, che oggi purtroppo non vengono pesati. Cioè il fatto che io debba fare 50 km per andare a ritirare un medicinale presso la struttura pubblica non è conteggiato nella spesa e nel risparmio di spese, invece questo per il cittadino forse è il costo maggiore. Conosciamo il provvedimento che ha citato, perché se non ricordo male è quello che vorrebbe Alessandro, magari mi ricordi anche tu in questo senso, è quello che vorrebbe limitare il numero delle parafarmacie nel nostro paese, certo, ridimensionare certo, un certo. po' il numero. Un'ultima domanda, anzi forse non so neanche se riesco a fargliela fare a Tarabusi, nel momento in cui la farmacia sarà pronta a derogare questo tipo di servizi, sulla base anche degli esperimenti, delle iniziative che sono già partite nel nostro paese, cosa potrà fare dunque il cittadino, per esempio per prenotare una visita medica specialistica, quali documenti dovrà presentare concretamente, come dovrebbe funzionare tutto questo, Tarabusi? Dunque, in realtà ovviamente tutto questo si saprà all'esito dell'adozione dei provvedimenti delegati e poi dei vari provvedimenti attuativi, perché ricordiamo che tutta questa attività governativa è fatta in collaborazione con le regioni, però sarà sufficiente la ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale recante la cosiddetta impegnativa, se si parla di strutture pubbliche o private convenzionate. Tarabusi, grazie, buona giornata. Grazie a loro, buona giornata. Saluto e a presto, Alessandro. Eccoci qua, allora, alle 12 Salva Danaio. Previdenza complementare, perfetto. Fondi pensione. Le 8:32 minuti, eccoci qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: il governo incassa la fiducia sul disegno di legge intercettazioni, oggi il voto finale sul provvedimento. Intanto l'opposizione scrive al capo dello Stato per esprimere profondo disagio per un testo definito politicamente eversivo, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati parla di morte della giustizia penale in Italia. Torna a farsi sentire Veronica Lario, la moglie del premier Berlusconi, in una dichiarazione pubblicata oggi dal Corriere della Sera in prima pagina. Si dice vittima di un brutale infangamento della mia persona, della mia dignità e della mia storia coniugale. Dopo le proteste dell'opposizione non parlerà nell'aula del Senato il leader libico Gheddafi, da ieri in visita in Italia. Ora Italia e Libia sono amici, ha detto Gheddafi, che si è presentato con al petto la foto di Omar al-Mukhtar, leader della resistenza contro il colonialismo italiano. Oggi Gheddafi sarà in Campidoglio e alla Sapienza. In Parlamento ci sono amici, avvocati e alcune zoccole. C'è andato davvero pesante. Beppe Grillo ieri era in audizione proprio al Senato come primo firmatario di una proposta di legge popolare. E le senatrici replicano: lo quereliamo. Tutto questo alle 8:33 minuti. E allora 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come avete sentito, l'ho data anche in notizia d'apertura perché è un po' il tema del giorno, il DDL intercettazioni, la fiducia c'è. E oggi il voto finale, provvedimento che forse verrà votato con voto segreto. Che cosa prevede, in estrema sintesi ovviamente, come pubblicato oggi da schemi dei vari giornali? Il PM potrà chiedere ora di intercettare solo se ci saranno evidenti indizi di colpevolezza. Potranno essere intercettati tutti i presunti autori di reati con pene superiori a 5 anni, comprese minacce a giotaggio. Non si potrà intercettare per più di 60 giorni e torna al carcere, tra l'altro anche per i cronisti, la pena diventa da 6 mesi, anche se può essere tramutata in sanzione. Io saluto il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è il sindacato dei magistrati, Giuseppe Cascini. Cascini, buongiorno. Buongiorno. Io a memoria non ricordo una dichiarazione così forte, la morte della giustizia penale, e poi credo abbiate detto anche il favore ai peggiori criminali, questo provvedimento. Insomma, durissima la presa di posizione. Guardi, questo è un testo che contiene delle previsioni semplicemente incredibili, e molte di più di quelle che lei ha elencato. Se lei pensa che non potranno né la polizia né la magistratura mettere delle telecamere nelle piazze per filmare gli spacciatori che vendono droga nelle piazze o per individuare i responsabili delle rapine, una cosa che invece possono fare i comuni o possono fare i privati cittadini, non può fare la polizia, non può fare la magistratura. Non si potranno acquisire i tabulati telefonici, ma soprattutto non si potranno fare intercettazioni per trovare i colpevoli dei reati, perché l'intercettazione si potrà fare solo se il colpevole è già stato trovato. Non solo è stato trovato, ma ci sono evidenti indizi di colpevolezza. Sì. Qualcuno dovrà spiegarci perché non lo si arresta il colpevole di un grave reato quando ci sono evidenti indizi di colpevolezza invece di intercettarlo. Allora tutte le indagini a carico di ignoti per omicidio, per violenza sessuale, per rapine nelle ville, per reati finanziari, per reati di corruzione, le intercettazioni finalizzate a trovare i colpevoli, e questo è lo scopo principale dell'intercettazione, non si potranno fare. E poi il termine di 60 giorni, un sequestro di persona in corso, un'operazione di traffico di stupefacenti o di armi che duri più di 60 giorni, perché purtroppo la realtà può essere diversa da quello che pretendono i nostri parlamentari, le intercettazioni dovranno essere interrotte, anche se si ascolta una telefonata che ci dice dov'è l'ostaggio o che l'ostaggio verrà ucciso nei giorni successivi. È una cosa semplicemente incredibile. Sì. E noi abbiamo il dovere di dire ai cittadini che con queste norme la polizia e la magistratura avrà le mani legate nei confronti dei criminali. Ma così muore la giustizia non è un qualcosa che alza un po' lo scontro anche tra magistratura e politica? Non ce n'è davvero bisogno, visto che è quello che è successo in questi decenni. Cioè una dichiarazione, una presa di posizione così forte, è davvero così come lei la mette? Guardi, noi sommiamo una serie di cose, insulti continui ai magistrati da parte di autorevoli esponenti del governo, norme che limitano drasticamente la possibilità di investigazione, una campagna di stampa fatta da quasi tutti i giornali vicini all'attuale governo contro la magistratura, e un'iniziativa legislativa sul processo penale che è in corso di discussione al Senato, che distrugge completamente la possibilità di arrivare a una sentenza, quale che essa sia. Noi mettiamo insieme tutte queste cose e siamo costretti a denunciare una situazione nella quale sarà impossibile rendere giustizia in questo paese. Oggi Gaetano Pecorella, esponente del PDL, dice alla stampa in un'intervista, qualche perplessità ci può essere, però insomma anche i magistrati non esagerino, il giudice può dire che ci sono gli elementi indiziari validi e si potrà intercettare comunque, poi ci sono stati degli abusi e quindi la norma doveva essere necessariamente più rigida, non esageriamo, ecco. Non esageriamo, guardi, io le faccio un esempio per capire. Se ci fosse un medico o alcuni medici in alcuni ospedali d'Italia, poniamo a Potenza, che avessero ecceduto nell'uso delle TAC, il legislatore abolisse completamente questo strumento diagnostico, che cosa direbbero i medici italiani? Direbbero morirà più gente. Questo è il risultato di questa cosa. Noi non stiamo discutendo di come rimediare a singoli episodi di abuso, stiamo discutendo di una legge che sostanzialmente abolisce uno strumento investigativo utilizzato in tutto il mondo per contrastare la criminalità, da noi non sarà possibile utilizzarlo. Io Massimo Martinelli voglio salutarlo, buongiorno collega. Buongiorno Alessandro. Collega del Messaggero, ne scrive molto, ovviamente segue la giustizia. Allora si dice, ti faccio la domanda proprio da collega, sei preoccupato perché anche la Federazione della Stampa, insomma i giornalisti dicono è una limitazione, è davvero una limitazione se passa questo provvedimento per quello che si può scrivere, quello che si può dire? Ma per quanto riguarda noi giornalisti, io mi discosto un po' dal sentire comune della categoria e non ritengo che sia una limitazione, perché leggendolo bene il DVL si capisce che più o meno le cose cambiano pochissimo, si potranno continuare a pubblicare per estratto, per riassunto i contenuti dell'ordinanza di questo da cautelare, quindi in una fase in cui ancora il processo è sottoposto al vincolo del segreto. E poi dopo, quando comincerà il processo, potranno essere pubblicate anche le intercettazioni, quindi non esiste secondo me una limitazione della libertà di stampa. Se ci sono delle intercettazioni davvero compromettenti, poi verranno fuori al processo. Attualmente invece vengono fuori con il decreto di perquisizione, vengono fuori con l'avviso di garanzia o con l'ordinanza di custodia cautelare, quindi in una fase in cui l'eventuale colpevolezza della persona sottoposta a intercettazioni e dei suoi amici, perché poi naturalmente vengono pubblicate anche le intercettazioni di chi parla con l'indagato, in quel momento non è provata la sua colpevolezza. Molte volte è accaduto che siano state pubblicate intercettazioni compromettenti, ma dal punto di vista morale, e non è compito della magistratura accertare la moralità delle persone, non dal punto di vista penale, sono state pubblicate le intercettazioni di persone che poi sono risultate estranee ai fatti. Ti chiederei questo, perché ieri ne hai scritto sul Messaggero e oggi anche Pecorella lo dice, di un magistrato non si dovrebbe nemmeno conoscere il nome, dice Gaetano Pecorella. C'è in questo senso una novità nel DDL appunto di cui tu hai parlato, che cosa è in previsione da parte del governo? Ma è una novità, non una novità, perché già da molti anni alcuni illuminati colleghi avevano proposto di eliminare ogni riferimento personale alla persona che conduce le indagini. Il DDL contiene appunto questo divieto, i giornali non possono pubblicare il nome dell'inquirente e anche del giudice che poi si occupa del processo, si occuperà del processo, è chiaro che poi il processo verrà a porte aperte e quindi il nome verrà fuori. Però questa è la spersonalizzazione della giustizia, dell'inchiesta, si va a incidere alla radice quel fenomeno di protagonismo che ieri Napolitano, ha stigmatizzato proprio al CSM. Infatti era proprio su questo che volevo tornare da Giuseppe Cascini. Le chiedo innanzitutto che ne pensa della spersonalizzazione del processo, cioè neanche sapere chi è il PM che indaga, e le chiedo ovviamente, mi riaggancio a quello che ha detto il capo dello Stato, non ho sentito da parte dei magistrati una risposta così dura come lei ha detto muore la giustizia penale, ha invece il richiamo molto secco e duro alla presenza anche di troppo protagonismo da parte di alcuni magistrati che ha fatto il capo dello Stato, Cascini. Guardi, noi siamo contrari a ogni forma di protagonismo e queste cose le andiamo dicendo da anni. Un invito al riservo, alla moderazione, alla comunicazione all'esterno sulle vicende che riguardano i propri processi è nel codice deontologico della magistratura approvato dall'Associazione Nazionale dei Magistrati 10 anni fa. Purtroppo ci sono dei casi singoli, sporadici, nei quali un magistrato appare troppo all'esterno in ragione delle sue indagini. Da qui ad arrivare a vietare la pubblicazione del nome e dell'immagine del giudice, secondo me ce ne passa, perché se è meglio evitare ogni forma di protagonismo, io come cittadino francamente vorrei sapere chi è il giudice, il pubblico ministero che sta indagando su di me o sta decidendo della mia libertà. Ma questo forse, lei dice le persone eventualmente indagate, ma il pubblico lo deve sapere o sarebbe un modo, cioè se mi arriva dalla procura di Milano invece che dal PM che sta indagando, non è meglio, so che sta indagando la procura di Milano, non so il nome e cognome, chi se ne frega. I giudici sono persone ed è giusto che l'opinione pubblica possa farsi un'idea non solo sulla magistratura ma anche sulle persone che esercitano quella funzione. Io penso che un controllo critico sull'operato della magistratura debba riguardare anche l'operato dei singoli per poter decidere della bontà delle loro iniziative. Quindi, sotto il profilo del controllo da parte dell'opinione pubblica, io preferirei che si sapesse chi è il magistrato che assume una determinata iniziativa. Certo, mi rendo conto che l'eccessiva pubblicizzazione dei nomi dei magistrati, delle loro immagini, a volte siamo arrivati ad eccessi di vederli pubblicati immagini di magistrati su riviste di gossip, certo questo non aiuta l'immagine della magistratura. Allora, un'ultima battuta a Cascini, perché molti dicono ma come, non c'è il contraddittorio, ma la gente fa un po' i furbetti. Quando l'altro giorno abbiamo avuto per 10 minuti, e lo rivendico molto contento, Massimo Livadiotti, autore del libro Magistrati, l'ultracasta, lei l'ha letto Cascini? Nessuno l'ha letto, l'ho letto. L'ha letto. Che ne pensa? Penso che sia un libro ricco di disinformazione e di inesattezza. Quando uno dice che un magistrato lavora 4 ore al giorno, dividendo per 365 giorni le 36 ore lavorative, semplicemente è un cattivo matematico e un cattivo giornalista. Vabbè, ha ridotto forse, magari adesso io non lo so, non c'è Livadiotti qui a replicare, però ha ridotto forse alla cosa più, però il principio, insomma il concetto è un attacco molto duro, però è anche documentato, l'ho letto anch'io, ci sono tante cose effettivamente che fanno un po' rendere perplessi, però lei l'ha letto E ce n'è una che fa rendere molto perplessi, con la vicenda del 73, che se vuole possiamo rimangare. Sì, no, ma sono perfettamente d'accordo con Livadiotti. Tutto il resto devo dire che francamente un'opera di cattiva informazione che raccoglie le peggiori falsità sulla magistratura e sui magistrati italiani, le peggiori falsità, le opinioni di alcuni limitati magistrati che gettano fango sulla categoria, ma in realtà francamente mi pare un libro molto poco informato. Va bene, io vi ringrazio, Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, che parla, perché tutti ragazzi, ci vuole anche un po' meno disinformazione o meno qualunquismo a chi dice non c'è il contraddittorio, appunto c'era Massimo Livadiotti 10 minuti l'altro giorno, era da solo e nessuno a dirmi non c'è il contraddittorio, a chi dice ma come il magistrato che è lì in diretta parla di protagonismo e di che non bisogna parlare, e poi parla, è il segretario del sindacato dei magistrati, in quanto sindacato dei magistrati parla insomma in questa veste. Non spariamo sempre cose così, bisognerebbe essere un po' meno qualunquisti e demagogici. Grazie Giuseppe Cascini, segretario dell'ANM, Massimo Martinelli, giornalista del Messaggero, che si occupa di giustizia. Che poi è Stefano Livadiotti, che saluto, il collega dell'Espresso, che ha scritto Magistrati l'ultracasta, come effettivamente mi fanno notare. Allora, dicevamo, si è scoperto che, io sono rimasto un po' stupito comunque a leggere la notizia, che all'ATM, che è l'azienda dei trasporti pubblici di Milano, se sei marocchino, hai 18 anni, vuoi essere assunto, non puoi, perché c'è un regio decreto del 31 che limita l'assunzione allora ai cittadini italiani, oggi ai cittadini dell'Unione Europea. Solo che quando appunto questo ragazzo marocchino di 18 anni ha detto voglio essere assunto, l'azienda sostanzialmente si è difesa così in aula: il servizio pubblico di pubblico trasporto involge delicati aspetti di sicurezza pubblica ed è particolarmente esposto a rischi di attentati. È proprio in questi giorni la notizia che 5 terroristi maghrebini avrebbero organizzato un attentato nella metropolitana milanese, che avrebbe dovuto realizzarsi nelle elezioni del 2006. Dunque, siccome c'è il rischio di attentati, a meno da inchieste di alcuni maghrebini nel passato, se sei marocchino, dunque maghrebino, non puoi lavorare all'ATM. Allora, Matteo Salvini è qui con noi, c'è anche l'avvocato Alberto Guariso. Avvocato, lei difende la persona. Avvocato, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è rimasto stupito anche lei, immagino di sì. Ieri c'è stata un'udienza nella quale l'azienda sostanzialmente sostiene questo, no? Gli aspetti lì sono due, cioè noi sosteniamo che quella norma è già implicitamente abrogata dal testo unico immigrazione del 98, e se il giudice riterrà che la norma del 31 è abrogata, questo problema di cui stiamo parlando non si pone. Sì. Poi l'altro problema è, se invece non è abrogata, noi chiediamo che venga rimessa tutta la causa alla Corte Costituzionale, la quale dovrà valutare se questa distinzione è compatibile, questo requisito è compatibile compatibile col principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. È lì che l'ATM dice: ah, secondo noi non c'è nessun problema di costituzionalità perché è ragionevole richiedere il requisito della cittadinanza, perché questo ci tutela la sicurezza degli abitanti di Milano e tutela la tranquillità. A noi sembra che questa tesi sia, non solo dal punto di vista logico, ma anche proprio dal punto di vista giuridico, davvero la cosa più, e anche dal punto di vista culturale, francamente, davvero la cosa più assurda che può essere. Sì, da me è il collegamento rischio attentati, ma cioè, siccome ci sono stati dei rischi di attentati, che peraltro la Procura di Milano dice, ma in realtà non ci fu nulla, comunque insomma c'erano dei rischi di attentati di magrebini e dunque, essendo magrebino, ecco, la sicurezza pubblica. Matteo Salvini, allora, torniamo a parlare delle metropolitane milanesi? Matteo Salvini, no, Matteo Salvini, insomma, ve lo ricordate, è lei quello che poi ha precisato, però insomma se n'era uscito con le carrozze per Milanese. Per le donne, per il milanese. Che ne pensa? Cioè, mi spieghi perché secondo lei, ho già letto qualche dichiarazione a dire fa bene l'ATM, lei ha detto fa bene l'ATM a dire non per... Mi spieghi perché? Cioè, siamo tutti orecchi. Non tanto, io non faccio l'avvocato, quindi la nostra come Lega è una precisa scelta culturale, come diceva l'avvocato. La regione Sicilia e la regione Trentino Alto Adige riservano i loro concorsi pubblici ai residenti in Sicilia e in Trentino Alto Adige. Ora io non so quanto sia alto il rischio attentati e se possa essere più pericoloso un magrebino, un cinese, un indiano o un filippino. Detto questo, secondo noi in alcune aziende pubbliche come ATM, siccome io sulla mia scrivania al gruppo della Lega in Comune ho centinaia di curriculum di ragazzi di 20 e di 50 anni italiani che vorrebbero andare a lavorare all'ATM, così come all'AMSA e in tutte le altre aziende pubbliche, ci vuole la precedenza. È giusto che a parità di requisiti si dia la precedenza ai cittadini italiani o quantomeno comunitari, così come avviene senza scandalo, ripeto, oggi, stamattina in Sicilia o a Bolzano. Ma mannaggia, ma perché? Cioè, voglio dire, ma la disturba l'idea che un ragazzo marocchino possa lavorare all'ATM? Assolutamente no, però siccome ci sono, appunto, vista la crisi economica, migliaia di italiani che aspettano questo posto di lavoro, secondo me hanno qualche diritto acquisito in più di avere la precedenza loro rispetto al marocchino, che sarà una bravissima persona, un ottimo autista, però se devo scegliere tra il 18enne marocchino e il 18enne o il 52enne italiano, io do la precedenza all'italiano. Avvocato Guariso, non è appunto una prosecuzione della battaglia legale, insomma, quella la porta avanti nelle aule, però che dice, insomma? No, dico solo, innanzitutto che bisogna distinguere, un conto è la residenza e un conto è la cittadinanza. Se ci fosse un ente locale, non è il caso dell'ATM, ma un ente locale che vuole intervenire su coloro che sono residenti da un certo periodo di tempo, cioè fare delle cose per chi ha un certo radicamento su quel territorio, quella è un'altra questione, se ne può discutere. Ma il ragazzo è sulla questione della cittadinanza in sé, no, mi scuso, devo solo dire, sulla questione della cittadinanza in sé, l'onorevole Salvini vuole cancellare leggi che sono vigenti in Italia dall'81 per questo principio, non era una convenzione internazionale che ha detto quando uno entra e è regolarmente soggiornante quello ha diritto di accedere al lavoro a parità di condizioni. Ma l'onorevole Salvini ha detto io non faccio l'avvocato, no Salvini, no, lei dice io faccio una questione culturale. Ma non è una questione di leggi e di cavilli. È una questione che quelle leggi hanno fondato da 30 anni il percorso di costruzione dell'Europa e della civiltà nella quale viviamo adesso. Si può decidere di cancellarle, benissimo, di tornare a quelle cose che avevano determinato i conflitti del secolo scorso. Si può fare tutto, ma sta che ci sono delle leggi, delle direttive europee che non sono cavilli, appunto, sono il fondamento sul quale abbiamo costruito la nostra civiltà giuridica e sociale. Ha capito Salvini? Discutiamo, ma si può discutere di tutto, basta sapere che il problema è quello. Salvini, ma voglio andare. Salvini ha capito, ha sentito l'avvocato, dice lei non. Insomma, a volte mette su questa scorza, dice, come dire, non me ne frega, io la penso così. E va bene, insomma, perché. Ma guardi, la Lega ha avuto 9 deputati europei eletti settimana scorsa, se è così non abbiamo che andare a Bruxelles a mettere mano a quanto sopra. C'è un dato culturale di fondo, quando noi parliamo di, adesso si parla dell'ATM, però lo stesso discorso vale, che so, per le case popolari. Secondo noi, Sì, sulla cittadinanza c'è stato qualche ricorso, sulla residenza. Ma mi scusi, no, ma le faccio. No, sa perché? Manca un minuto. Le faccio questa domanda secca. Allora, visto che Filippo da Perugia ce lo scrive, lei fareste guidare un aereo dell'Alitalia a un marocchino? Io sì, io ho appena preso un aereo della Tunisair. Erano tunisini e non è successo niente ed ero tranquillo come andare su un volo del non so, della compagnia finlandese. Lei lo farebbe guidare un aereo dell'Alitalia a un marocchino? Ma ci mancherebbe altro. L'Alitalia è privata. Un ente pubblico, secondo me, ha il diritto dovere di privilegiare i residenti o i cittadini che abitano. Ah, per questo. Parte. Perché è pubblico e quindi, essendo pubblico, ci vuole... Io non posso manca mica andare a chiedere all'Italia di mettere tutte le oste salte bionde con gli occhi azzurri. Vabbè. Io vi saluto e seguiremo questa vicenda a capire come va a finire, perché ieri c'è stata un'udienza. Ringrazio sia Matteo Salvini della Lega Nord, Alberto Guariso è l'avvocato invece che difende questo diciottenne che, insomma, vuole, a mio modo di dire, legittimamente, ma insomma poi vedremo come andrà a finire, a dire voglio lavorare per l'ATM. Voglio lavorare per l'ATM, non è che chiede tantissimo, voglio lavorare, ecco. Va bene, ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara torna, parliamo con l'elefante e il referendum. Questo è il tema di oggi e noi, ringraziando Laura Marchese, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, ci troviamo domattina.